sapore, ma il sapore del niente, della pubblicità. E anche se il destino ci dimentica, io stringo gli ugni e solo resisterò. Anche il mio destino poi si stancherà, salterò il buio e solo lo vincerò. Soldi, soldi, soldi, prezza bene ogni gesto, siamo identità. Fammi un bilancio del niente, dimmi quanto ti costa questa tua realtà. Al mercato del niente.